7. Ascolta e controlla. 1. Ieri c'era molto traffico. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare a casa. 2. La festa è stata magnifica. Abbiamo ballato e ci siamo divertiti tantissimo. 3. Sto scrivendo la mia tesi. Mi ci vorranno ancora 2 mesi circa per finire di raccogliere i dati. 4. La piazza è affollatissima. Secondo me ci sono almeno 1000 persone. 5. Verrai al cinema con noi? Ci verrei volentieri, ma ho un po' di mal di testa e preferisco riposare. 6. Mannaggia, non trovo gli occhiali e senza ci vedo male. 7. Sono le 9:15. Usciamo? Piero ci aspetta a teatro alle 9. 8. Parli tu con il professore? Non preoccuparti, ci parlo io. 9. Per ottenere il visto mi ci vogliono 2 settimane. 10. Vai a nuotare spesso? Ci vado tutti i giorni, ma riesco ad allenarmi solo il sabato.